Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Bevete un sorso d'acqua, fate un bel respiro, qualche vocalizzo, insomma attrezzatevi perché oggi si parla. Anzi, parlerete soprattutto voi. C'è un numero verde 800 24 0024, chiamatelo senza esitazione e fateci sentire la vostra voce. Sfoderate il vostro biglietto da visita, fate conoscere la vostra impronta, lasciate insomma che tono, timbro, ritmo, pause parlino di voi e per voi. Bastano poche parole per ricevere una sorta di carta d'identità della vostra voce, ma come sempre oggi avremo tanti consigli per aiutarla a stare bene o a tornare a stare bene. Orecchie attente, attentissime, ci ascoltano qui in studio la dottoressa Salvatrice Buscemi, otorinolaringoiatra, foniatra, consulente alla scuola del piccolo e a quella dei Filodrammatici di Milano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Abbiamo anche qua un altro paio di orecchie assolutamente super tecniche, quelle della dottoressa Federica Calvi, che è logopedista. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi siete pronte? Le nostre esperte sono pronte. Dottoressa Buscemi, dicevo, basta una parola o una frase per avere una sorta di carta d'identità. Dottoressa. Sì, la voce ha delle caratteristiche fondamentali che sono tipiche di ognuno di noi. Sono il timbro, come diceva lei, sono l'intensità, la frequenza fondamentale, cioè la tonalità sulla quale noi parliamo, e ognuno di noi ha una voce che ha imparato a usare sin da bambino in un ambiente che l'ha condizionato e che è legata anche al suo carattere, alla sua personalità. Spesso riascoltando la nostra voce non ci piace, la troviamo strana, diversa, quasi come se non ci appartenesse. Questo è normale. Ah. È normale perché ma il comune mezzo gaudio. Siamo abituati a sentire la nostra voce dall'interno del nostro corpo rimbombare dentro ai nostri apparati di risonanza nella nostra testa e non siamo abituati a sentirla obiettivamente come la voce di un altro e quindi non la riconosciamo proprio come parametri acustici, come qualsiasi altro suono che viene generato da un altro strumento. Quindi è normale. È normale, se la vostra non è preoccupante. Voce non vi piace, siamo in tanti, siamo in buona compagnia. Il fatto che non ci piaccia qualche volta è indice anche di una insicurezza, per cui non ci piacciamo noi. 800 24 0024, la buona notizia è che la voce può essere anche educata, rieducata. Ci sono delle attenzioni che ci aiutano a mantenerla bella, sana, magari a modificarla un po', perché come i nostri muscoli anche il nostro apparato fonatorio ha bisogno di essere allenato. Questo è un po' il compito della logopedista, dottoressa Calvi, quindi tocca a lei insomma oggi sì. Farci allenare. Esattamente, nel senso che appunto solitamente abbiamo proprio l'abitudine a parlare senza prendere fiato. Come se appunto volessimo esprimere i concetti proprio con tutti insieme, come se avessimo pochissimo tempo a disposizione. E questo ovviamente ci fa rimanere senza voce spesso, impoverisce la nostra voce. Ci capita, per esempio, non so, anche di sforzare la voce, per esempio, per chiamare una persona da una parte all'altra della stanza. Certo. Per non alzarci, risparmiamo la fatica e sforziamo la voce. Esatto, perché chiaramente questo va benissimo per la comodità, ma sicuramente non per la nostra voce. A volte addirittura ci consumiamo proprio in telefonate infinite, interminabili. Lei sembra mio marito, magari, mi dice magari le stesse proprio cose. Urlando anche in mezzo alla strada, perché questo capita, no? Nel senso che spesso si usa la voce, si parla al telefono. Anche perché viviamo in ambienti molto rumorosi, alzare la voce è facile anche proprio per farci sentire. Esatto. Quindi alla fine arriviamo a casa la sera proprio stremati, anche se non ce ne accorgiamo. Esattamente. La nostra voce si lamenta quando un po' è alle corde, mi verrebbe da dire, dottoressa Buscemi, sì, troppo. Perché parlare stanca. Ci sono poi professioni che costringono la voce proprio a un super lavoro, penso ai maestri, ai professori, ai centralinisti. Intanto ne approfitto per ringraziare il centralino di Radio 24, insegnanti, attori, doppiatori, politici. Parole, parole, parole. Ascolta. Ecco, riteniamo che davvero sei figurine messe là, tutte con lo stesso spazio di tempo per rispondere, non darebbero una bella immagine. Qui si sta cercando di capire quel che si muove nel profondo. Si sta cercando di bucare il muro dell'autoreferenzialità del sistema, perché comincia ad essere in gioco il sistema. Una parola ancora. Io ho trovato un'atmosfera straordinaria, veramente bella, quindi con persone competenti, valide. Voglio presentare, adesso si presenteranno, ognuno di voi si presenterà a voi che siete a casa. Parole, parole, parole. Allora, tutto il significato di questa fase attuale dell'economia italiana è già stare un po' attenti con proposte shock o proposte check. Che cosa sei? Parole, parole. Berlusconi, Bersani, Grillo, Monti, dottoressa Buscemi, dottoressa Calvi. Quattro voci, quattro impronte, quattro firme. Ogni voce, dottoressa, lei diceva, è unica, inconfondibile, assolutamente personale, ma ogni voce racconta qualcosa. Ad esempio, di queste quattro voci, la voce che la colpisce di più come la voce che è meglio calibrata, più sana? Diciamo che tutte queste voci sono sane. Io non parlerei di voci malate o di voci forzate, perché quelle che abbiamo sentito sono tutte voci usate diversamente l'una dall'altra, perché ci sono delle variazioni nel ritmo, nella intensità, nella frequenza, ma quindi nella melodia, nella modulazione, diciamo, della voce. Però la voce suona sana, e una voce sana vuol dire che è pulita, chiara, netta, che arriva un messaggio preciso le nostre orecchie. Quindi in questi casi io direi che queste voci sono tutte sane, non farei assolutamente un qualcosa che possa modificarle. Sono, anche se sono voci che vengono utilizzate molto e che all'orecchio ci appaiono molto diverse, quasi sforzate, ad esempio quella di Grillo, ci sembra una voce brava. Brava. Ecco. Quella di Grillo sembra, lei ha detto molto bene, sembra una voce col forzata. Sembra uno si salva sempre. No, vero? Ma è la verità, perché vede, Grillo, dobbiamo considerare che ha un passato di attore. Eccolo lì. E la sua voce noi la conosciamo da sempre così, lui l'ha sempre usata così, da che noi lo sentiamo sui palcoscenici d'Italia. E quindi possiamo dire che è vero, sembra forzata, ma quanta sapiente tecnica c'è alla base di questo. Dottoressa Calvi, lei ha individuato dei punti di forza da queste quattro voci che magari possono essere tradotti in consigli per i nostri ascoltatori? Direi che sicuramente Berlusconi ha una voce eufonica, direi, quindi bene impostata, sicuramente anche dotata di un'articolazione buona. E utilizza delle pause ispiratorie adeguate, quindi dimostra in sostanza una grande sicurezza. Quindi ci portiamo a casa, ecco, questo primo consiglio. Esattamente. Facciamo le pause. Esatto, questo è quello che articoliamo bene. E valutando invece la voce di Bersani, anche lui ha sicuramente un'articolazione chiara, eufonica, il ritmo è diciamo un po' da conversazione, come dire, amichevole, un pochino più da salotto, ecco. Quindi direi che forse potrebbe un attimino lavorare sulla velocità dell'eloquio e anche un po' sul mordente, forse. Ecco, come si fa? Le persone, i nostri ascoltatori, che si riconoscono in questo ritmo blando, un po' soft, da salotto, da conversazione, che ricorda quello di Bersani come passo, che cosa possono fare per prendere ritmo, che non vuol dire accelerare? No, esattamente, infatti non vuol dire accelerare, ma vuol dire cercare di modificare, di variare l'intonazione, quindi modulare le tonalità, quindi gestire tonalità gravi, tonalità acute e chiaramente aiutarsi anche con l'articolazione, perché sappiamo che una buona articolazione equivale a dire anche una gestione di voce in maschera, quindi arricchire il suono di armonici fondamentalmente. Il che significa? Il che significa che Grillo, con quelle aperture di bocca incredibili che fa, si aiuta moltissimo in questo. E questo è il segreto, aprite la bocca. Aprite la bocca. Lucia da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Siamo pronti. Posso dire la frase che ho scelto? Sì, per fare una sorta di test della sua voce. La sentiamo con un frrr. E al telefono. Lucia, vada. Sì, sì, sì. Adesso mi sente meglio? Sì, vada Lucia. Allora, la frase è questa. La tua voce mi ha fatto innamorare. Frase banale, però. L'ha detta qualcuno, Lucia? Io. Se la dice da sola? Sono la colpevole. No, pensavo che fosse una frase che lei magari aveva rivolto, volesse rivolgere ad un uomo affascinante che l'aveva incontrata. Lucia ci chiede, dottoressa Buscemi, e naturalmente coinvolgo la dottoressa Calvi, di analizzare la sua voce, di capire che cosa può fare per mantenerla sana, se ci sono delle attenzioni. Che voce ha Lucia? Beh, Lucia ha una voce che come frequenza definirei acuta, quindi questo mi fa pensare a Lucia come non una grande donna, ma una donna di dimensioni anche abbastanza medie, diciamo. Minute. Medio-piccole. Lucia, non... quanto è alta? 1,60. Perfetto, dottoressa Buscemi, bacia preso. È magia. Mm. E poi c'è un po' di titubanza in, così, nella voce di Lucia, che mi fa pensare che, non, che sia un po' timida. Questa volta emozionata, sì. Sì, emozionata, perché parlare in radio, e quindi questo chi chiama prende due piccioni con una fava, perché oltre ad avere una carta d'identità della sua voce, si allena un po', vince un po' quel timore che tutti noi abbiamo nel parlare in pubblico, ma che aiuta, perché superarlo ci rende più sicuri. Certamente, quindi avrebbe dovuto prendere più fiato, secondo me, all'inizio della frase, essere un po' più sicura e poi metterci più sentimento in questa frase. Esercizi per la voce di Lucia, che è una voce che avrebbe avuto bisogno di carburante proprio per apparire più fiera. Ecco, sicuramente un consiglio, un suggerimento potrebbe essere quello di pensare un po' di masticare questo suono, questa M, cercando di coinvolgere le labbra, quindi un suono tipo quindi cercando di sollevare gli zigomi anche per riscaldare la voce, partendo dalla sua tonalità, quindi dalla sua tonalità di conversazione, e poi scaldare anche la voce con altri con altre risonanze, con altre emissioni di suono. Io dico sempre, lo associo queste emissioni a come voler assaporare una cioccolata con la panna. Ognuno si inventa insomma quello che meglio crede, ognuno si inventa il sapore con dei suoni tipo gnom, gnom. Potrebbe provare Lucia a vedere come cambia la sua voce? Sì, dopo aver fatto questi vocalizzi. Si chiamano vocalizzi? Si chiamano vocalizzi, sono vocalizzazioni che diciamo è consigliabile attuarli anche la mattina, non so, prima, mentre si fa, prima di far colazione, per esempio, prima di bere il caffè, ecco. Dopo la puntata ci alleniamo con Carmelo Lauricella, che regia la parte tecnica, che potrebbe, lo sta già facendo, e con Laura Vanossi. Armando dalla provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, Armando. La mia domanda era, io quando parlo e ho occasione di riascoltarmi, ne resto amareggiato e deluso perché non riconosco la mia voce. Armando, quasi nessuno la riconosce e solitamente non ci piace. Normale. La dottoressa Buscemi ha detto tutto normale, ma ad Armando, la dottoressa Buscemi, che invece la voce di Armando la sente con un occhio tecnico, che cosa racconta? Ecco, tecnicamente Armando, lei ha qualche problema nell'emissione della voce, perché la sua voce non suona, è come se ci fosse un filtro che taglia degli armonici. Quindi sentiamo un suono cupo nella sua voce, non è una bella sonorità pulita, chiara. Io non so come lei prenda il fiato, come lei usi l'appoggio della voce sul fiato, per cui non la vedo, ma ho l'impressione, lei è un parlatore, cioè parla molto per lavoro o no, per abitudine? Non sono un gran parlatore. No. E forse per questo. Un altro motivo potrebbe essere questo. Chiacchierate, gente, chiacchierate. Brava Nicoletta. Dovete parlare, perché la voce va allenata e più la alleniamo e più migliora. E quindi soprattutto nella respirazione, come suggeriva la dottoressa Calvi, respiriamo prima di parlare e cerchiamo di dare colore alla nostra voce. Un ascoltatore mi scrive: quello che conta sono i contenuti, non come si parla. Ha ragione, ma si possono anche fare delle chiacchiere, parliamo di cose amene, ecco, e lavorare bene con la respirazione. Naturalmente, se abbiniamo i contenuti ad una voce gradevole, facciamo, no? Una migliore impressione. Quindi oggi ci occupiamo prevalentemente della nostra voce e augurandoci di non dire cose sciocche. È una voce anche questa, fastidiosa, imbarazzante, noiosa, ma pur sempre una voce. Ippocrate diceva infatti che la tosse è la voce del polmone, e se a un foniatra basta ascoltare la voce per valutare lo stato generale dell'apparato fonatorio, al pneumologo basta spesso un colpo di tosse per capire come stanno i nostri polmoni, o meglio l'apparato respiratorio. Dottor Boffi, buongiorno. Buongiorno. Responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e direttore del centro antifumo, il nostro dottor antifumo, insomma, per dirla in modo semplice e diretto. E anche antitosse. E anche antitosse, sì. Che è fastidiosa a sentirla e ad averla. Certo, è anche un meccanismo di difesa, di espulsione dei corpi estranei, delle polveri sottili, la tosse. Chi non ha un meccanismo della tosse ha un grosso problema di salute, però è anche un campanello d'allarme che c'è qualcosa che non va. E non sempre, che ne dicesse Ippocrate, è colpa del polmone, perché certo, che vengono dovute allo stomaco, al cuore, al naso, alle sinusiti. Per cui però spesso i bronchi e i polmoni sono offesi anche da cause di organi vicini, diciamo così. E comunque c'è uno studio recente giapponese su una grossa popolazione che evidenzia che più del 10% della popolazione generale ha la tosse, quindi un sintomo oltre che molto fastidioso anche parecchio frequente. E sempre questo studio dice interessante che più del 60% delle persone che hanno tosse anche persistente non si rivolgono al medico. Quindi è un sintomo che molte volte sottovalutare, sì, oppure sottovalutare, o ormai facci un po' l'abitudine, e invece viene consigliato da tutte le linee guida, anche da una recentissima linea guida australiana, di rivolgere, che fondamentalmente la diagnosi di malattia polmonare che esordisce con una tosse è la visita del medico e la spirometria, e poi eventualmente anche una radiografia del torace. Questo per escludere la principale causa polmonare della tosse, che è la bronchite cronica ostruttiva. E appunto, se. Ma se la. Dottore, sì. Se non subito dopo i primi colpi di tosse, no, se no, la no, tosse persiste. La cosiddetta tosse persistente, bravo. Cioè quella che dura qualche settimana, anche qualche mese, insomma, allora lì, quando c'è una tosse che tende a diventare cronica, allora è meglio rivolgersi al medico e ancora allo specialista. Certo. Ci sono le patologie che anche polmonari come l'asma, che puoi avere una spirometria normale, però insomma la bronchite cronica ossuttiva no. E siccome ci sono ottimi farmaci adesso per risolvere a livello polmonare, stanno uscendo anche nuovi broncodilatatori antitussigeni con solo un'aspirazione di polvere, molto meglio dei vecchi aerosol, è peccato quindi adesso rassegnarsi non più alla tosse. L'aerosol è stato sostituito dalla polvere? L'aerosol prima di tutto è molto latina come cosa, nei paesi anglosassoni non è stato quasi mai usato, e poi ci sono delle persone, soprattutto asmatiche, a cui questo vapore può anche dare un effetto controproducente, irritarle e fare venire più tosse. Dottor Boffi, a proposito di vapore, fa venire la tosse anche la sigaretta elettronica? A proposito di vapore? A proposito di attualità, beh sì, perché voi sapete quanto io combatta i danni del fumo. Adesso stiamo cominciando a vedere anche qualche noia, perlomeno se non vero e proprio danno, da vapore, perché è un vapore che a volte è molto caldo e soprattutto in presenza di nicotina ci sono delle persone magari suscettibili, predisposte in quanto allergiche o asmatiche, che cominciano a lamentare anche dei fastidi. E comunque è già stato pubblicato in letteratura uno studio su CEST che le sigarette elettroniche possono già dopo 10 minuti, se aspirate molto forte, con questo calore molto elevato, irritare e dare una risposta infiammatoria a livello dei bronchi. Per cui importante naturalmente non fumare più, però in presenza di sintomi dopo l'assunzione della sigaretta elettronica è meglio magari sentire il parere del proprio medico. Mi sta andando via la voce anche a me. Dottor Boffi, intanto comunque se mi va via la voce oggi sono tranquilla, sono in ottime mani. Dottor Boffi, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Mauro e Prisca ci chiamano da Milano e da Verona all'800 24 00 24. Fatelo anche voi, fate sentire la vostra voce, respirate, tirate un bel respiro, anche più di un respiro, perché adesso andiamo a sentire i mercati e il meteo, quindi c'è tempo anche di bere un pochino d'acqua, perché dottoressa Buscemi, l'acqua è perfetta, no? Idrata, fa venire la bella voce, no fumo, molta acqua, andiamo ai mercati. Essere e benessere. Oggi una puntata al femminile, parleremo di prevenzione, lo faremo con l'aiuto di tante esperte che ci aiuteranno ad occuparci della nostra salute a 360 gradi. Mamma mia, che sofferenza! Ma cos'è? A proposito, ma chi è questa che parla senza voce? Io ricordo, sono entrata in onda, perché uno può dire stai anche a casa, ma la cosa strana è che avevo un po' di raffreddore, mi sembrava di stare bene, poi entro, mi metto le cuffie, con Laura ridiamo ancora, se la ghigna Carmelo forse doveva esserci anche lui, si aprono, si accendono i microfoni, basta, non mi veniva più la voce, ormai non potevo più scappare e andare a casa. Ecco, ma non sono sola, dottoressa Buscemi, ci sono tante volte, la voce sparisce, sembra che capiti all'improvviso, apparentemente senza ragioni, ma una ragione può esserci, banalmente il mal di gola, no? Appunto, io tutti i giorni vedo gente che purtroppo viene proprio per questo, perché ha dei problemi con la voce, e la voce se ti sparisce ci deve essere sotto un motivo, quindi l'anamnesi è importantissima. Io devo fare domande incredibili prima di riuscire ad arrivare al punto, perché non c'è la coscienza, perché non abbiamo la coscienza della vocalità, della voce, di che cosa facciamo tutto il giorno con la voce, di che cosa ci può far male, per cui ci roviniamo la voce proprio così. Allora, quindi, ricordiamo, indipendentemente, scusi, dalla laringite acuta come quella che è capitata a lei l'altra volta, quindi indipendentemente dal fatto infiammatorio, proprio l'uso, l'abuso qualitativo, quantitativo della voce ti può portare di conseguenza a essere senza voce. Ho bisogno che lei allora mi dica due cose. La prima, quali sono i segnali che ci fanno capire che stiamo usando male la voce, la stiamo stressando? Segnali che spesso passano da noi inosservati, ma che alla fine poi si pagano. Quali possono essere? Allora, di solito chi ha questo problema mi viene a dire: rimango senza aria a un certo punto quando parlo, mi si spezza la voce, mi abbandona e diventa difficile produrla. Quindi anche durante la giornata improvvisamente Sento che la mia voce si affievolisce sempre di più e mi è faticosissimo produrla. Quindi se devo parlare fino a sera non ce la faccio, perché mi viene una fatica tremenda, una sensazione di dolore, bruciore al collo, alla gola, e mi devo impegnare anche col respiro molto di più, come se non avessi fiato. Questi sono i segnali di una voce che viene usata male. Lei ha detto, dottoressa Buscemi, non abbiamo la consapevolezza delle cose che danneggiano la nostra voce. Sicuramente il fumo. Ah, io sono d'accordissimo col dottor Boffi. Certo. Ha trovato una spalla incredibile, perché guardi, il fumo purtroppo io mi rendo conto che fa male a chi ha una predisposizione però al male creato dal fumo, quindi chi è predisposto ad ammalarsi, perché ci sono personaggi che fumano per tutta la vita e non hanno problemi di voce, ma questo non è un alibi per altri, perché certo, ci sono persone che dopo un mese che fumano già hanno il raschietto. Ecco, noi parliamo solo dei danni del fumo sulla voce, perché i danni del fumo sono tanti, per carità, e assolutamente voglio sottolinearlo, importanti per la nostra salute. Certamente. Ricordiamo che è la prima causa di relazione diretta tra fumo e tumore al polmone, questo bisogna dirlo, e poi ma noi dobbiamo dire che c'è una relazione diretta che viene sempre trascurata fra fumo e tumore alla laringe. Perché si parla del polmone come se fosse la cosa, è la cosa più importante, per carità, ma la voce quando viene meno perché gli devi togliere la laringe non è una cosa. Quindi da poco. Fumo, altre situazioni che o abitudini, dottoressa Calvi, che possono in qualche modo danneggiare la nostra voce? È vero che i colluttori in qualche modo possono, se non scelti in modo adeguato, provocare dei disturbi? Così rispondiamo ad un nostro ascoltatore. Vuole che risponda io? I colluttori non sono i colluttori, ma piuttosto gli spray. Cioè quegli spray che noi spruzziamo delle volte in gola quando abbiamo un'infiammazione, sì, su prescrizione del medico curante, possono essere dannosi, perché noi li dobbiamo inspirare su consiglio del medico curante, e questo può provocare una irritazione, una secchezza. Le corde vocali non le accettano, per cui si hanno disfonie. Quindi, per rispondere all'ascoltatore, il colluttorio assolutamente il tranquillo. Il colluttorio non è un problema. E lo spray. E invece lo spray. Prisca, è Ambra spray e Roberto. Causa. Prisca, buongiorno. Buongiorno, Nicoletta. Buongiorno a lei. Auguri. Grazie altrettanto a lei e alle sue ospiti. Io volevo dire che per lavoro parlo, devo dire che anche mi piace parlare, e probabilmente abuso sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo della mia voce, la stresso, e mi è capitato in più occasioni proprio di perdere la voce o rimanere quasi completamente senza. Quindi sicuramente sbaglio qualcosa, mi domandavo se c'è una prevenzione o un modo di parlare che mi possa essere utile. Dottoressa Calvi, che tra l'altro di voce proprio l'allena, anche di chi la voce, certo, la usa professionalmente al piccolo teatro di Milano con la dottoressa Buscemi. Certo. Se dovesse allenare, preparare la voce della nostra ascoltatrice, che con la voce lavora, perché quale consiglio le darebbe? Beh, sicuramente le darei comunque delle indicazioni per utilizzare comunque delle ispirazioni rapide ma profonde. Sembra che i due termini non vadano d'accordo, rapido e profondo, vero? Esatto, sembra... esattamente. Invece esattamente. Invece in realtà è assolutamente possibile. Beh, chiaramente quando si parla si respira contemporaneamente dal naso e dalla bocca, altrimenti purtroppo tutte le nostre ispirazioni sarebbero totalmente rumorose. Chiaramente per quanto riguarda poi il nostro lavoro, solitamente si è abituati a inspirare, a far inspirare, diciamo, la persona dal naso, appunto per evitare di creare secchezza a livello delle mucose, ma chiaramente nell'utilizzo poi quotidiano l'ispirazione necessariamente avviene sia dalla bocca che dal quindi naso. Quindi inspirare e poi? Inspirare, utilizzare delle ispirazioni frequenti, questo sì, sicuramente ha un senso, articolare molto. Questo perché? Perché articolare permette di migliorare sicuramente la risonanza. Come fa la dottoressa Calvi in questo momento? Perché muovono molto la bocca. Muovo molto la bocca, e muovo molto le labbra. Infatti non ha neanche una ruga, secondo me anche quello. Eh sì, è una ginnastica utile anche, ecco, per la pelle. Fate un po'. Faccio un movimento, esagerate il movimento delle labbra, della lingua, di tutta la mimica facciale, per aiutarvi a una buona emissione di suono. Quindi idratare sempre. Idratare, è molto importante bere almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno, sicuramente. Spesso, soprattutto. Spesso. Ambra da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per potermi permettere di fare questo intervento. E volevo chiedere, anch'io uso la voce per lavoro e vedo che già un pezzo di risposta sono arrivate dalle sue ospiti, però volevo chiedere cosa manca per sapere di più. Se c'è proprio bisogno di, per chi lo usa per lavoro, proprio magari di allenarsi con degli esercizi, con delle cose da fare nel quotidiano proprio per imparare a usarla correttamente, o addirittura se proprio conviene fare dei corsi, tra virgolette, mi passi l'espressione, ecco. Dottoressa, le faccio i complimenti per la sua bella voce, perché io considero la sua voce una bella voce, ben impostata fra l'altro, almeno per quello che mi sta dicendo adesso. Quindi una voce armonica, con le pause, sì, i ritmi. Io penso che lei, non, se la usa così come la sta usando con noi, non dovrebbe avere nessun problema. Non è, però, dottoressa Calvi, un altro esercizio lo possiamo suggerire, soprattutto ad Ambra, che vuole saperne giustamente di più. Quindi, oltre ai vocalizzi, la respirazione, le boccacce, l'idratazione, allora, le pause. Sicuramente un esercizio penso che possa poi essere utile sia per recuperare l'elasticità che la tonicità delle corde vocali, perché non dimentichiamo che sono dei muscoli. Certo, quindi come tali vanno chiaramente allenati. Diciamo un esercizio anche molto efficace è lavorare appunto sull'estensione con per esempio quella che noi chiamiamo la sirena, quindi per esempio con un suono R partire dalla propria frequenza di conversazione, o comunque che vuol dire come parliamo e fare per esempio essere e benessere. Voglio le vostre voci. Roberto, buongiorno da Bergamo. Innanzitutto desideravo fare gli auguri a tutte le donne che stanno ascoltando, mi sembra giusto, non le pare? Certo, Roberto. Sì, volevo chiedere un consiglio alla sua gentile dottoressa, che è con lei, sulla modulazione della voce, perché ogni tanto ho un aumento di salivazione. Quanto conta la salivazione per le corde vocali e per la bocca in genere? È importante? Grazie mille. Grazie a Roberto. Allora Roberto, la salivazione ci garantisce. Però è una voce un po' bella, no? È una bellissima voce, voleva che le facessimo, sì, i complimenti. Ha fatto gli auguri, insomma. Ci sono voci più piacione di altre. È una bellissima voce, ecco, la sua. Diciamoglielo. Sì, ha una bella risonanza, ha un timbro bellissimo, caldo. Insomma, ci chiami, Roberto ci possa chiamare. Allora Roberto, la salivazione ci permette di idratarci, perché la salivazione è importante perché ci idrata tutte le mucose dell'apparato diciamo digestivo e per metà respiratorio, perché naturalmente con la saliva noi a un certo punto ci fermiamo a livello al di sopra delle corde vocali, perché non arriva mai sulle corde vocali, ma poi va a finire in esofago, certo, quindi nelle e prende digestive. La sua strada. Però avere una buona salivazione è importante, ma se le aumenta la salivazione, in genere è un fatto nervoso, uno stato di tensione può aumentare la salivazione, come o viceversa, vero, brava la Nicoletta, bocca. Può asciugare la bocca, per cui questo non vuol dire niente. La salivazione può essere dovuta ed è stimolata dall'appetito, dai profumi di buon, famosa colina in di bocca. Cucina, per cui è importante però l'idratazione da parte della saliva. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce. E a proposito di silenzio, anche lui ha la sua voce. Imparare ad ascoltarla penso che sia un esercizio utile per tutti noi, per la nostra voce ringrazierebbe, perché ha bisogno di pause, di silenzi, proprio per ripigliarsi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Nicoletta Pollamatteo, giornalista e fondatrice con Duccio Demetrio dell'Accademia del Silenzio, una scuola che promuove una cultura e un'ecologia del silenzio. Ciao Nicoletta, benvenuta, buongiorno. Ciao Nicoletta e grazie di avermi invitato in trasmissione a parlare della voce del silenzio. Perché l'invito di oggi è quello proprio di provare a sintonizzarsi sulla voce del silenzio, quindi orecchie attente, Nicoletta. Davvero, perché appunto voi avete parlato durante la trasmissione di voce, diciamo che ogni tanto bisogna anche farla riposare, no? La voce, visto che viviamo in un mondo invece molto chiassoso, dove tutte le volte che bisogna parlare c'è o la musica di sottofondo di un negozio, di un bar, persino gli studi medici ormai hanno la filodiffusione, e quindi un po' inevitabilmente siamo portati ad alzare, no? il volume per farci sentire, quindi ad affaticarci, non solo noi, penso che anche gli animali. Ci sono degli studi che dimostrano che gli animali di città, per farsi sentire, alzano il volume dei loro versi e dei loro richiami amorosi. E perché noi proponiamo di scoprire la voce del silenzio? Perché si possono aprire bene le orecchie e sintonizzarci anche su dei suoni più sottili, diciamo, no? dei suoni delicati. Qua, che sono diventati quasi impercettibili, penso ai fruscii. Il sottovoce, ecco, per esempio, se posso fare un esperimento proprio velocissimo. Dai, vi mi dico piace. Delle parole, frullo, fruscio, appunto, sciacquio, soffio. Sussurro. Ecco, io mi domando se queste parole hanno ancora un significato sonoro, ci ricordano proprio un suono, oppure se sono appunto ormai dei reperti letterari, no? Semplici parole, perché chi nasce, cresce e vive in città è abituato a sentire suoni sempre intorno ai 40-50 decibel, un sussurro è 20 decibel, quindi... La dottoressa Boucher mi dice forse ancora di più. Forse vero? Ancora di più, ma diciamo prestiamo attenzione fino ai 50 decibel, poi suoni inferiori proprio non prestiamo attenzione. Vediamo, ripetiamo queste parole tra di noi e diciamo se hanno un suono oppure le abbiamo dimenticate. Da qui parte anche una bella iniziativa proprio promossa dall'Accademia del Silenzio. A me fa molto piacere annunciarla per la prima volta proprio nella vostra trasmissione. Sai che poi noi portiamo buonissimo, Com'è? Noi portiamo buonissimo, certo. Molto bene, insomma. Noi faremo il 21 aprile, quindi c'è un po' di tempo e spero ne riparleremo, lanciamo a Milano, che non è proprio la città più silenziosa d'Italia, ma proprio volutamente a Milano, lanciamo la prima giornata contro il rumore. E l'idea è proprio che tutta la città in diversi punti ospiterà maratone, convegni, passeggiate, dibattiti, concerti di musica non amplificata, per dimostrare proprio che è possibile fare silenzio anche in una grande città, è possibile ascoltare, diciamo così, fare insieme esperienze a basso volume, no? Sottovoce e lentamente. E speriamo di coinvolgere quanti più cittadini, associazioni, tutti gruppi ecologici vogliono partecipare per dire basta l'inquinamento acustico, comunque per esercitarci ad ascoltare anche voci diverse, un po' meno urlate, diciamo così. Allora, 21 aprile, intanto ne parleremo ancora di questa giornata che ci invita a fare silenzio. Grazie a Nicoletta Pollamatteo, un abbraccio. Grazie a tutti gli ascoltatori. Se andate veloci, perché abbiamo un minutino, prendiamo Mara da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo avere un consiglio su questo. Normalmente quando io parlo sento la mia voce come normale, come un tono di voce che si ascolta, che si sente. In realtà le persone con cui parlo spesso non mi sentono. Ho questa difficoltà a farmi sentire dagli altri, ma se io alzo il tono della voce mi sento affaticata. Quindi, come mi esce naturalmente è sì, più basso il tono. Mara, tra l'altro la sentiamo male, ma abbiamo capito. A proposito, dottoressa Calvi, abbiamo 30 secondi. Una voce che sembra bassa, ma se vuole farsi sentire si sforza, e deve essere sgradevole, perché avere i commenti degli amici che ti dicono non ti sento, no, non aiuta. Bene, nel questo, suo caso, ecco, prego, prego. No, questo appunto probabilmente perché utilizza magari una frequenza che non è precisamente la sua. Per trovarla siamo in chiusura? Per trovarla potrebbe semplicemente andare un pochino sulle note più alte o più basse anche a cioè seconda. Cambiare tono, questo può essere d'aiuto anche una logopedista che ti aiuta a conoscere la voce. Questo può essere, è un po' come un personal trainer. Dottoressa Buscemi, dottoressa Calvi, grazie per essere stati con noi. Io vi ricordo che la puntata potete scaricarla e quindi riascoltare le vostre voci. Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, non so se ha fatto qualche vocalizzo, non l'ho tenuto d'occhio. Laura Vanossi in redazione. Per oggi è tutto, vi saluto, vi do appuntamento a lunedì. Buona giornata. Essere e benessere.